Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia di questa settimana e come vi hanno già annunciato i nostri GR e i miei colleghi, oggi la puntata terminerà alle 18 per lasciare spazio allo speciale, a uno degli speciali che Radio 24 dedica proprio alla tornata elettorale. Noi, come sempre, ci occuperemo anche del voto, ma per capire quali restano i temi sul tappeto. Da più parti avete letto e sentito che in sostanza in una campagna elettorale in cui si è parlato di tutto tranne che forse delle sfide e delle soluzioni alle sfide economiche, beh, dal giorno dopo, da domani o dopodomani bisognerà iniziare anche a dare delle risposte su un 2010 a livello regionale, ci mancherebbe, ma non solo, che come più volte abbiamo ricordato sarà un anno vischioso, e cioè la crescita sarà molto modesta, i problemi dell'occupazione resteranno, le imprese arrivano al 2010 più affaticate anche perché hanno dovuto tenere botta nel 2009 a crolli della produzione degli ordinativi senza precedenti, e quindi il 2010 sarà un anno in cui si spera che a fine 2010 arrivi un po' di ripresa, ma comunque sarà un anno difficile anche perché questa, diciamo, stagnazione economica non farà notizia. Ecco perché prenderemo una regione simbolo di quello che è il sistema delle piccole e medie imprese italiano, chiaramente il Veneto. Al di là del fatto, come sembra in maniera abbastanza certa, della conferma della vittoria di Luca Zaia, quelle che sono le sfide sul tappeto resteranno, e anche le soluzioni possibili a livello regionale. Prima di tutto però parleremo di un'operazione che a livello internazionale, mentre l'Italia, appunto, in Italia si dibatte di elezioni regionali, i cinesi mettono un piede, e che piede, un ennesimo piede in Europa nella produzione di auto. L'avete letto sui giornali, immagino, l'acquisto da parte di un grosso gruppo automobilistico cinese proprio della Volvo, e anche qui ragioneremo sugli scenari possibili, perché immagino, è immaginabile comunque, che questo rappresenti per i cinesi una prima testa di ponte verso il mercato europeo. Poi, come sempre, i mercati finanziari. Devo dire che la seduta è abbastanza piatta in tutta Europa, più 0,1% Milano, più 0,1% anche Parigi, lo 0,6% il rialzo invece di Francoforte, invariata Londra, l'America guadagna 0,5 punto percentuale. L'accordo europeo, o meglio franco-tedesco, sulla Grecia con il ruolo del Fondo Monetario Internazionale, che non piace alla Banca Centrale Europea, anche perché ne esce, diciamo, ridimensionata come ruolo, dico, l'accordo sta producendo qualche effetto sul mercato dei cambi, nel senso che l'euro ha recuperato, non è più a 1,33, è a 1,3475, cioè si avvicina a quota 1,35, anche nei confronti del franco svizzero non siamo più a 1,42 ma 1,43, non è un recupero, insomma, di quelli storici, c'è stato un miglioramento dell'euro nei confronti del dollaro e nei confronti del franco svizzero, ammesso e non concesso che questo sia una buona notizia. Molti imprenditori infatti possono anche preferire un euro un po' più debole perché si esporta un po' meglio. 349-238-6666 per i vostri sms. Ancora due notizie rapidissime sui titoli. Il migliore tra quelli a maggiore capitalizzazione è Pirelli, più 2,70, come Ansaldo STS e Bulgari. Campari guadagna l'1,6, Impregilo pure, Geox più 1,1 come Snam, Rete Gas, l'Enel guadagna l'1%, ST Microelectronics lo 0,90, Fiat lo 0,70. Chi perde di più? Autogrill meno 1,45 e ancora Monte dei Paschi meno 1,1, Unicredit meno 1%, Banco Popolare meno 0,80, Popolare di Milano meno 0,60, Fondiaria pure, Luxottica meno 0,40, Atlantia meno 0,30%. Come sempre a quest'ora e in apertura le notizie in breve. E allora il petrolio ha aperto in rialzo, $80,6 al barile, 0,8%, tutti i prezzi invece della benzina restano sopra 1,4 euro. Un solo ritocco da segnalare, Total, che l'ha portato a 1,411 euro al litro. Rio Tinto, il dirigente australiano del Rio Tinto, il gigante minerario anglo-australiano, è stato condannato a 10 anni di carcere a Shanghai, e questa è una notizia che arriva dopo un'inchiesta in cui è stato processato per mazzette e pratiche commerciali scorrette assieme a tre dirigenti cinesi, ed è un dirigente appunto della Rio Tinto, che è il numero uno al mondo nel settore minerario ed è a partecipazione appunto inglese e australiana. Andiamo all'America, perché il Tesoro americano ha confermato che venderà la partecipazione che ha in Citigroup. Ricorderete, a fine 2008, nel pieno della crisi, il governo americano, per salvare i grandi gruppi bancari, tranne Lehman, comprò intere quote societarie, ne comprò nel caso specifico 7 miliardi e 700 milioni di dollari di azioni di Citigroup. Ha detto che le venderà in maniera molto ordinata, ma entro quest'anno. La Grecia collocherà sul mercato 5 miliardi di obbligazioni, di titoli di Stato a 7 anni, e saranno prezzati, quindi avranno un rendimento molto alto, in modo da essere sottoscritti praticamente del 3,1% rispetto al tasso mensuo. E infatti, diciamo, l'emissione di oggi era un test importante per la Grecia, che per la prima volta si è rivolta agli investitori dopo l'accordo, insomma, con l'Unione Europea. Nel frattempo è arrivato il voto di Standard & Poor's al debito britannico, confermato a AAA, ma prospettive negative. Buona notizia invece sul fronte della fiducia degli imprenditori europei: è letteralmente volata nell'area euro, 12° rialzo consecutivo, praticamente da un anno che l'indice che misura la fiducia degli imprenditori dell'area euro continua a crescere, anche se non è ancora arrivato, devo dire, ai livelli pre-crisi. E su questo fronte buona anche la stima del Centro Studi Confindustria sulla produzione industriale italiana nei primi tre mesi. Allora, a marzo ha fatto un altro più 1,3% rispetto a febbraio, quindi è congiunturale, e quindi nei primi tre mesi del 2010 il rialzo della produzione industriale dovrebbe essere stato del 2,7% rispetto all'ultimo trimestre del 2009. È chiaro che dopo un meno 22% nel 2009 di produzione industriale, insomma, si fa presto a capire che anche se arrivasse a un più 5% all'anno, ci vorrebbero circa 4-5 anni, un po' più di 4 anni per arrivare ai livelli pre-crisi, ai livelli del 2007. Allora, sono state circa 153.000 le domande di sospensione dei debiti per le piccole e medie imprese. Lo ha comunicato il Ministero dell'Economia oggi sulla base dei dati aggiornati allo scorso 28 febbraio. La possibilità di avere la moratoria sui debiti era frutto dell'accordo anche con l'Associazione Bancaria Italiana, oltre che con il Ministero dell'Economia. Il 13% in più comunque di domande di sospensione dei debiti rispetto a quelle arrivate a fine gennaio. L'antitrust italiano ha inflitto una multa non piccola, 250.000 euro, al gruppo BNL per pratica commerciale scorretta nella comunicazione dei costi dell'estinzione anticipata dei mutui. Nel caso specifico, l'antitrust ha contestato alla BNL di prospettare ai consumatori l'entità della penale senza specificare che l'importo indicato può essere ridotto in conformità all'accordo sottoscritto nel 2007 fra l'ABI e le associazioni dei consumatori. Cioè, c'era solo la penale, ma non la possibilità ma non veniva specificata la possibilità di poter ridurre l'importo della penale come frutto dell'accordo. È iniziato un'ora fa il comitato, un po' di più, un'ora e mezza fa, il comitato strategico di Unicredito, che deve esaminare il progetto di banca unica dopo che le fondazioni, lo ricorderete, la settimana scorsa avevano bloccato ed erano molto critiche, soprattutto quella di Torino e di Verona, sul progetto di banca unica. Sempre nella sede di Unicredito e anche in previsione oggi il comitato nomine. E comunque uno dei consiglieri di Piazza Corduce, di Unicredito, ha detto che non è mai stata in discussione il fatto che Profumo resterà amministratore delegato del gruppo. Gruppo Banca Intesa, o meglio Fondazione Cariplo, proporrà per il Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Intesa San Paolo i nomi di Giovanni Bazzoli, Ferdinando Targetti, Livio Torio, Franco Dalla Sega e Marco Spadaccini. E allora ancora due dati che riguardano i conti di gruppi italiani. Il gruppo Exor ha chiuso il 2009 con una perdita di, a livello consolidato, di 389 milioni di euro contro un utile di 300 milioni nel 2008. La capogruppo però è in utile a 88 milioni di euro. Exor distribuirà, che ha una partecipazione insomma, di rilievo come famiglia Agnelli nel gruppo Fiat, diceva Exor, distribuirà un dividendo di 27 centesimi a ogni azionista per le ordinarie, 32 centesimi per le privilegio, 34 centesimi per le azioni di risparmio. Infine il gruppo SEA, Società Aeroporti di Milano, ha chiuso il 2009 con ricavi per 580 milioni di euro, in calo dell'8%, comunque ancora inutile. L'utile netto per la SEA è di 53 milioni di euro contro il 1 800 mila euro del 2008, e questo nonostante, va detto e va riconosciuto alla SEA, nonostante Alitalia abbia più che dimezzato la sua presenza a Malpensa. Andiamo col primo approfondimento, 349-238-6666 per i vostri sms. Alcuni ascoltatori segnalano, devo dire che capita spesso, che l'ascolto di Radio 24 è spesso interrotto da Radio Maria, ogni tanto capita, non è un segnale, vi assicuro, insomma, c'è da pregare che la ripresa arrivi presto, ma insomma lo facciamo in maniera fattuale con i numeri e le cifre. E adesso però il primo tema, ossia i cinesi già arrivati in Europa in vari modi, con l'acquisto siglato ieri a Gothenburg della Volvo, che si è comprata il gruppo Geely, che è la maggiore casa produttrice privata cinese, hanno messo un piede importantissimo, e già questo la dice lunga su poi quanto provinciali possono essere alcune polemiche di casa nostra anche nel settore auto, mentre il mondo va avanti e va avanti con una certa velocità. Eh sì, insomma i giornali titolavano Volvo con gli occhi a mandorla, va alla cinese Geely. Insomma l'acquisto l'ha firmato con l'americana Ford, pagherà 1,8 miliardi di dollari, poco più di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Non punta solo ad un marchio di prestigio, ma consente, come immaginabile, alla casa automobilistica cinese di acquisire tecnologia europea, sia per rispondere alle esigenze del mercato cinese, più 46% le immatricolazioni in Cina nell'ultimo anno, sia per competere anche sul mercato globale. E allora un ritratto dei due soggetti, la Volvo, tutti sapete cos'è la Volvo, ma va detto che la Volvo era già sul mercato, cioè si sapeva che la Ford voleva venderla già dalla fine 2008, con tutti i problemi che la Ford come GM e come Chrysler ha avuto in quell'anno. Negli ultimi tre anni comunque già erano stati ceduti i marchi Jaguar e Land Rover a Tata Motors, indiani, se questo dice qualcosa forse permette di alzare anche lo sguardo rispetto alle beghe di casa nostra. Tata Motors comprò Land Rover per 1,7 miliardi e Aston Martin, ceduta anch'essa, e adesso ha venduto anche la Volvo, sempre di controllo Ford. Un prezzo più alto fu pagato nel 99, ben più alto, dalla Ford stessa. Pensate, pagò la Volvo 6 miliardi e mezzo di euro. Adesso la rivenduta per 1,3, quello che si dice un affare, diciamo. Cosa vuol fare la Geely? Punta a realizzare una fabbrica con il marchio anche in Cina, bellissima questa, di 300.000 autovetture. Insomma, Geely è stata fondata nel 1986 da Li Shufu, che ne è presidente, e lui stesso è al 123° posto nella classifica dei miliardari cinesi. Ma ha una storia molto strana, perché inizialmente questo gruppo forniva pezzi di ricambio per frigoriferi, adesso ne parleremo collegandoci con la Cina. Attualmente viene valutato in circa 2 miliardi di dollari, a 12.000 dipendenti, di cui 1.600 ingegneri, 6 impianti in Cina, per ora produce 300.000 veicoli l'anno, e anche 500 concessionarie e 600 stazioni di servizio. Ed è un gruppo che piace perché praticamente è entrata dentro la società anche la banca americana Goldman Sachs. Ha investito 334 milioni di dollari nella Geely. Praticamente se li convertisse in azione avrebbe il 15%. E allora parliamo subito dell'operazione. Ah, volete sapere i rapporti di forza? Avete ragione, sono 2 miliardi appunto il gruppo Geely con 12.000 dipendenti, dicevo, e 1.600 ingegneri. La Volvo invece ha circa 20.000 dipendenti, 14.000 dei quali all'estero, e vende 334.000 vetture. Ha chiuso il 2009 con un rosso di quasi un miliardo di dollari. Quindi siamo più o meno lì, 12.000 dipendenti da una parte, 20.000 dall'altra, però la maggior parte all'estero, vetture vendute siamo più o meno simili, 300.000 contro 334.000. Eh sì, Cina e India continuano a fare shopping mentre i russi se ne vanno. La Silvestre ha annunciato infatti che vuole mollare l'Europa e quindi anche il gruppo Lucchini, vedremo, quello però il fronte acciaio. Allora ci colleghiamo con Shanghai, dove c'è una voce conosciuta per chi ascolta Radio 24, mi riferisco a Saro Capozzoli, già nostro ospite altre volte, ospite dell'allora programma Jefferson Ming, è un imprenditore italiano, 15 anni che vive in Cina, aiuta le imprese italiane a acquisire impianti e andare a produrre in Cina. Buonasera, dottor Capozzoli. Buonasera. E mi scusi per l'ora, visto che insomma lì è notte fonda, ma voi siete abituati a lavorare 24 ore al giorno, no, non sto scherzando. Grazie anche a Paolo Malagodi, docente di economia e trasporto dell'Università di Ancona, editore di lista del Sole 24 Ore sui temi delle auto. Buonasera professore. Buonasera Barisone. Allora, Capozzi, ci racconti, visto che lei, se ho ben capito, ha conosciuto direttamente i vertici della Geely, ci racconti un po' di questo gruppo che obiettivamente compie la prima operazione anche da un punto di vista mediatico così significativa, comprarsi la Volvo. Non oso pensare per gli svedesi che shock possa essere, visto che insomma, la Volvo è sinonimo di affidabilità, sicurezza, gli standard della Volvo, la gabbia di sicurezza esordì nel 1944, insomma tutti ricordiamo la Volvo come esempio della solidità svedese. Chi è che se la compra? Ma se la compra un ex produttore, come diceva lei, di frigoriferi, che si è messo a fare poi nel 96 uno scooter che ha avuto grande successo. La prima automobile è stata prodotta nel 97 e diciamo che era più nota questa casa per aver copiato delle automobili, dei design. C'è proprio proprio una causa risolta da poco con la General Motor, per aver copiato la Chevy Spark, no? E addirittura hanno copiato anche la Rolls Royce Phantom due anni fa, che hanno presentato anche al Motor Show di Shanghai. Quindi ci sono, diciamo... mettiamola in maniera buona, dai, che rientra un po' nella tradizione cinese quella di copiare i modelli. Però detto ciò, io vorrei capire che tipo di espansione di solidità ha questo gruppo, perché, ripeto, lei ha avuto modo di conoscere i vertici della Geely. Ho conosciuto Li Shufu, che è il fondatore. È il fondatore, sì, uh-huh. È un imprenditore, lui è stato praticamente un po' un visionario, lui è il primo produttore diciamo privato in Cina. Ci sono 114 produttori di automobili in Cina, non ce ne sono pochi. E quando l'ho conosciuto, una cosa che mi ha fatto molto piacere, gli ho chiesto, ma lei guadagna a produrre macchine? Io ho costato 3 anni fa questo, no? Lui mi ha detto, ma io proprio a produrre macchine guadagno quasi niente, anzi zero. Allora, io ho detto, non è l'unico, mi sembra, in questo periodo. Infatti, ma come fa? Perché lo fa? Ma io guadagno in altri modi. E in che modo? Ma facendo formazione e training ai dipendenti dei concessionari e ai meccanici. Loro hanno 10-20.000 persone all'anno che vanno a fare diciamo training presso di loro, che pagano, e quindi loro hanno degli utili da questa diciamo entrata incredibile, no? C'è proprio nuove frontiere. Loro hanno comunque un piano molto ambizioso di espansione all'estero. Hanno in previsione nei prossimi 5 anni di fare 15 o acquisire o comunque di costruire 15 stabilimenti all'estero, Anche in Sicilia? Questo non lo so, perché non vengono a Termini Imerese? Ecco, no, c'è un interesse, però sono cose un po', diciamo, avanzate, diciamo, come discussioni e non si può entrare. Noi siamo stati entrati in contatto con, per aver supportato il nostro cliente a produrre, assemblare un SUV in Cina per appunto il mercato europeo. Quindi si parlava appunto di assemblare delle componenti in parte portate dall'Europa, in parte prese in Cina, e quindi avevo avuto modo di conoscere molto a fondo. E lo Shu Fu è un personaggio che, sì, è un chairman, una persona molto carismatica, che si trova molto spesso fra le catene di montaggio, ecco, quindi ecco, questo è stato il modo per cui l'ho conosciuto. E io mi chiedo comunque dove abbiano preso i soldi, ecco, una cosa che mi ha sorpreso, perché veramente, conoscendo un po' appunto quello che sappiamo, ecco, che loro sono molto attenti agli investimenti e fanno gli investimenti solo quando hanno i soldi. Questo ha superato, secondo me, la loro capacità di spesa, e hanno raccolto certamente tanti investitori, li hanno messi insieme, ma secondo me, con il mio parere, c'è dietro un governo cinese che... Beh, non sarebbe la prima volta, non sarebbe la prima volta. Lì c'è un'economia che potremmo definire mista, anche se i concetti, diciamo, occidentali poco si applicano all'economia cinese. Sappiamo che spesso dietro le operazioni ci sono i fondi sovrani cinesi, ma sappiamo anche che le stesse banche cinesi, se dovessero avere i criteri che vengono utilizzati per le banche occidentali, sarebbero in molti casi fallite, possiamo dirlo tranquillamente. Cioè, se non ci fosse dietro lo Stato cinese a ripianare i debiti o le esposizioni, da noi non potresti fare quei prestiti. Comunque, poi arriverò altre domande a lei sulla Geely, perché vorrei capire, insomma, appunto, come faranno anche a far fronte a queste perdite della Volvo. La Volvo perde 1 miliardo all'anno, 1 miliardo a tagli è costata, e vorrei capire l'operazione dal punto di vista strategico. Però, professor Malagodi, insomma, chi le avrebbe mai detto che la Volvo, il mito della sicurezza europea va in mano cinesi? Lei che cosa si aspetta che esca da questa operazione? Ma credo un rafforzamento della Volvo come produttore, che avrà nel mercato cinese uno sbocco di grande rilievo. Ricordiamo che il mercato cinese, come lei diceva, è cresciuto di quasi il 50% nel 2009, anche nel 2010 avrà un'espansione molto forte, e con una segmentazione molto netta: da una parte vetture popolari, minibus e quant'altro, dall'altra vetture di lusso. Cioè, ad esempio, Audi vende in Cina più Audi A6 di quante ne venda in tutta Europa, e quindi è chiaro che Volvo ha un mercato nella classe borghese dei nuovi arricchiti cinesi, che su una popolazione di 1,3 miliardi sono slariati milioni, estremamente interessante. Io credo la capacità dei cinesi di pilotare Volvo non solo sui mercati attuali, ma sul mercato cinese, come credo la capacità dei cinesi di impiantarsi in Europa o in altri paesi ricchi con fabbriche di loro proprietà che seguano il percorso già seguito più di 20 anni fa dai giapponesi e 10 anni fa dai coreani. Ecco, ma in una battuta, lei ritiene che un gruppo come Geely potrebbe essere interessato a Termini Imerese o no? Ma guardi, personalmente credo che noi abbiamo sottovalutato, almeno molti osservatori, non io, da alcuni tempi osservo con estremo interesse il mercato cinese, e ho scritto che se la Cina si avvicina lungo un percorso che, guarda caso, per le rotte trans-world delle navi oceaniche, passa attraverso Suez e che ha nell'area meridionale della nostra penisola un immediato vantaggio logistico. E quindi pensare a un'ipotesi cinesi in Sicilia non è affatto irrealistica, perché se la volontà di Fiat è di non trovare vantaggi logistici nello stare a Termini, un cinese ha il massimo vantaggio logistico stare nella prima piattaforma europea che si ha dopo il canale di Suez. Perché lei dice, praticamente arrivano dal canale di Suez e incontrano il porto Termini Imerese, comunque quella è la rotta che poi permette di arrivare anche nel resto d'Europa. Una domanda ancora, da quello che si è capito, però non lo so, ci chiedono gli ascoltatori se viene acquisito anche il movimento in terra marchio Volvo, quindi grue, macchinari per il movimento terra. Ma Malagodi, lei ha capito se tutta Volvo che viene acquisita? Ma guardi, noi avevamo un accordo di massima della fine dicembre 2009, al momento il discorso riguarda l'auto, però non escludo che se Volvo anche questa branca, dato il mercato delle costruzioni e delle realizzazioni stradali, infrastrutturali in Cina, possa essere anche questo un comparto della partita. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, metodo pubblicità, poi ho ancora due domande sia per Malagodi che per l'amministratore legato della Gesa Consulting, Saro Capozzoli. Ci sentiamo dopo il meteo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Adesso arriviamo alla borsa e poi ai temi economici che interessano le imprese, usando una regione apposta, volutamente, lo dico, visto che la regione in cui c'erano pochi dubbi era il Veneto. Vedo le proiezioni, Zaia viene dato al 60%, oltre il 60%, però i temi economici, produttivi restano tutti lì, anche domani. Non è che fate le elezioni e gabbato lo santo. Dottor Capozzoli, una domanda ulteriore: se lei ha dei dubbi su dove questa Geely abbia trovato i soldi per comprarsi la Volvo, vuol dire che ha anche dei dubbi su quanto massa critica avranno per fare gli impianti? Cioè, perché la Volvo in questo momento loro la prendono per rilanciarla, può essere sicuramente una strada quella di costruire gli impianti in Cina e quindi andare a vendere tante, tantissime auto Volvo in Cina, magari con modelli che si avvicinano di più al gusto e alle possibilità cinesi. Ma i soldi li hanno per fare gli impianti? Si parla di Pechino o di Tianjin? Sì, questo è quello che ci si chiede, perché il fatto di, appunto, che si acquisisca un qualcosa di importante in Europa poi non vuol dire che poi dopo vada bene così come incanti, i problemi restano. Bisogna poi rilanciare e reinvestire, e io vorrei capire dove vanno a trovarli questi soldi, se o avranno ancora un grande aiuto da parte del governo oppure non so. Per questo io la vedo questo come una grande operazione, anche questa, per acquisirsi in poco tempo di tecnologie come l'Euro 5 e l'Euro 6, eccola, che sono fondamentali per poter vendere in Europa, fare un upgrade, per poter poi entrare in Europa. Questo è quello che almeno molte case automobilistiche europee temevano ed è successo. Cioè, mi faccia essere un po' cattivo, invece che copiare, questa volta si comprano direttamente i brevetti e i marchio e quindi poi si portano a casa le tecnologie. Col maglev, il treno a lievitazione magnetica, hanno provato per 5 anni a copiarlo, non ci sono riusciti. L'anno scorso sono andati in Germania, hanno pagato 1,5 miliardi di euro e hanno comprato la tecnologia. Che è tecnologia della Siemens, se non ricordo male. Sì. Mm-hmm. Questo è un po' la nuova strategia. Hanno i soldi, possono farlo. Ecco, questo è il. E qua invece. Certamente... Prego. No, perché certamente il mercato europeo. Lo svoltoci, appunto, lanciato, portando appunto la Volvo in giro per l'Europa, non è interessante per loro, è interessante portare i loro modelli, il loro marchio. Io sono anche molto orgoglioso del loro marchio, ecco, quindi per poter poi entrare in Europa con il loro marchio successivamente. Ora sì, comunque c'è tanto da fare anche in Cina e devono anche rispondere a certi requisiti ambientali imposti dal governo cinese, quindi per non spendere anni e milioni di molto di più, diciamo, in ricerca, preferiscono andare per acquisizione. Mi dica un'ultima cosa che non c'entra con la Toyota, però ne approfitto della sua presenza, poi di Cina torneremo a parlare più avanti, nelle prossime settimane. Ma è reale questo pericolo inflazione lanciato da molti economisti a livello Alan Sinai, l'Economist? Si sente una crescita dei prezzi difficilmente da controllare in Cina in questo momento, sì o no? Ma si sente anche sull'ondata anche dei rincari delle materie prime, c'è un po' una bolla che sta diciamo più o meno gonfiandosi, ecco. Qui io le dico solamente questo: io ho comprato una casa nel 2002, quindi io rivedo qua ormai dall'inizio degli anni 90, ho avuto modo di comprare la casa, l'ho rivenduta l'anno scorso, rivendendola 6 volte il valore che l'ho comprata nel 2002, ecco, per farvi capire la bolla che si sta creando, che sta facendo aumentare i costi, e quindi c'è un'inflazione, una tendenza ad aumentare l'inflazione, e questo sta portando su anche i salari, dall'anno scorso sono aumentati del 10%, e un po' tutto quello che viene dietro. Allora, professor Malagodi, per concludere, visto che Saro Capozzoli ha avanzato qualche dubbio sulla disponibilità economica, poi sappiamo che lì ci pensa il governo cinese, quanto potrebbe far male una Cina che, comprandosi la Volvo, si compra anche tutti i brevetti, i marchi, appunto le tecnologie Euro 4, Euro 5, ai produttori europei? Beh, credo che sia un salto notevole perché li mette su un piano di parità. Oggi in Cina circolano vetture che solo nella zona di Pechino hanno il vincolo Euro 3, addirittura circolano con normativa Euro 2, e il prodotto cinese è sempre stato snobbato dal mercato internazionale per queste ragioni. Però non dimentichiamo che nel settembre 2005 a Francoforte l'unico e primo produttore cinese presente era la Geely, lo stesso nel 2006 a Detroit, quindi c'erano già degli assaggi. Io credo che un produttore cinese che abbia in mano un marchio di prestigio come Volvo abbia tutta la capacità di aggiornare la sua produzione, che nel 2009 è stata di sole 329.000 vetture, ma con un aumento del 61% sul 2008, un produttore giovane, e quindi questa enorme capacità di crescita non può che far pensare che da qui al 2015 la presenza dei cinesi, a cominciare da Geely, Conciri ed altri, sia una realtà, perché nel 2015 i produttori cinesi avranno dei numeri. Nel 1985 i giapponesi arrivavano in Italia a 4.000 vetture, i coreani nel 94 avevano 2-3.000 vetture. Oggi la loro presenza è massiccia, sono produttori di riferimento che prima copiavano, come adesso hanno fatto i cinesi, i coreani copiavano dai giapponesi, i giapponesi l'hanno copiato dagli americani e dagli europei. I cinesi oggi non solo copiano, comprano delle tecnologie, hanno capacità e inventiva per aggredire i mercati, non solo con una produzione che acquistano dall'estero per il loro mercato e per altre espansioni, ma con i loro marchi sul mercato dei paesi più ricchi, tra cui ritengo l'Europa e l'Italia stessa. Grazie, allora poi staremo a vedere le prossime mosse. Grazie al professor Malagodi, in collegamento con noi, è appunto economista e dottorista Sole 24 Ore. Grazie all'amministratore legato di Gesa Consulting, Saro Capozzoli, in collegamento con noi da Shanghai. Adesso la borsa. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora Livia, più 0,20%, Radio Cori sulle 24 ore, più 0,20% Milano, più 0,30% Parigi, più 0,60% Francoforte, più 0,15% Londra, più mezzo punto percentuale di rialzo sull'America. Piatta e piattine come inizio seduta, ci può stare. Comunque torna sugli scudi, come dice chi ha studiato, cioè torna a crescere Pirelli, più 2,6% e Bulgari, più 2,7%, anche se l'euro si è rafforzato sul dollaro, quindi non dovrebbe andare così su Bulgari. Motivo di Bulgari e Pirelli? Allora, per quanto riguarda Bulgari, accendere l'attenzione sul titolo sono state le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Swatch, che in un'intervista a un settimanale tedesco ha mostrato interesse per il settore. Infatti il numero uno ha spiegato di essere molto interessato a grandi marchi, anche se non è intenzione del gruppo ingaggiare, intraprendere battaglie per conquistare la società italiana. Bulgari, dal canto suo, su richiesta della Consob, ha poi spiegato di avere un'ottima relazione di affari con la Swatch, ma mai ha discusso con il gruppo di combinazioni azionarie di qualsiasi tipo. Comunque le azioni ne hanno beneficiato, chiudendo appunto, realizzando la migliore performance sul paniere principale. Per quanto riguarda Pirelli, la società ha beneficiato delle scommesse del mercato su una rivalutazione del gruppo dopo il previsto scorporo delle attività immobiliari di Pirelli Real Estate. Inoltre sono tornate a circolare le voci su una possibile fusione tra Pirelli e Pirelli Pneumatici, quindi Pirelli Tire, dopo lo scorporo di Pirelli Real Estate. Si tratta infatti di un'operazione che porterebbe una migliore struttura finanziaria, oltre a un miglioramento dei margini per Pirelli Tire. Bene anche al saldo STS, più 2,4%, controllata da Finmeccanica. Motivi particolari? Sì, no? Allora, non vi sono motivi particolari per il rialzo del titolo, ma bisogna sottolineare che ha raggiunto i massimi storici. Eh sì, 15 euro per azione. 15,08 euro per azione. Ha vinto qualche commessa recentemente, Ansaldo STS fa segnaletica per metropolitane e linee ferroviarie. Comunque, dopo le informazioni sul traffico, chi ha perso? La debolezza di Unicredit nel giorno del comitato strategico, anche Fondiere Assai, e di nuovo debole Monte dei Paschi. 349-238-6666 per gli SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Volete sapere cosa ha fatto il gruppo Intesa San Paolo? Più 0,3%, ma insomma, dicevamo, oltre a Bulgari, Pirelli e Ansaldo, bene anche Impregilo, più 1,60%, Campari più 1,5%, Enel più 1,3% come Snam Rete Gas, l'1% lo guadagna Geox e anche Steam Microelectronics, lo 0,90% è rialzo di Fiat, Unipol più 0,70% come Parmalat e Mediolanum e anche A2A. Exordo, Piconti, i dati che abbiamo ricordato in apertura, più 0,6%. Peggior titolo Autogrill, meno 1,20%, ma molto aveva corso in questi giorni, quindi ci sta un po' di realizzi. E Monte dei Paschi, meno 1%, Banco Popolare, meno 1% anch'esso, Unicredit, meno 0,80%, Fondiaria, meno 0,6%. La carrellata finale per te, Livia Zancanè, sul settore bancario e assicurativo, quindi Monte dei Paschi, Popolare, Unicredit, Fondiaria, sai. Allora, oggi bisogna sottolineare che il comparto bancario ha registrato una performance debole in tutta Europa, chiudendo a meno 0,26%, ma il settore è arrivato a perdere quasi l'1% nel corso della seduta. Allora, per quanto riguarda MPS, appunto, che ha perso lo 0,97%, la società ha risentito ancora dei conti pubblicati venerdì scorso. Oggi il presidente Mussari, al termine dell'assemblea straordinaria, ha dichiarato che il mercato ha le sue dinamiche, che il valore del titolo è una delle principali preoccupazioni per la società, ma il mercato in futuro saprà apprezzare il lavoro fatto e quello che sarà fatto in prospettiva. Per quanto riguarda Unicredit, appunto, Unicredit ha risentito della debolezza del settore nel giorno in cui si riunisce il comitato strategico per affrontare il progetto Banca Unica. E per quanto riguarda invece Fondiaria SAI, che ha perso ancora lo 0,62%, il titolo è penalizzato ancora dai conti 2009 deludenti e dal fatto che Standard & Poor's venerdì scorso ha tagliato il giudizio sulla società. Grazie, complimenti, perché ti ha fatto fare una carrellata non da poco. Grazie a Livia Zancanè, Radio Cori, Sole 24 Ore. E adesso, dopo, diciamo, i temi della Cina che si compra la Volvo, delle borse e di quant'altro, andiamo a un tema leggero, e quindi le elezioni politiche. Eh sì, perché partirà alle 18, lo ricordo a chi ne ascolta, lo speciale, uno degli speciali della Radio 24 sul dato delle elezioni regionali, politiche regionali. E non solo, però volevamo dedicare un piccolo approfondimento, non tanto all'esito elettorale, non è materia né tema di questo programma, ma a un ragionamento molto semplice: da domani si ricomincia come prima, e quindi dopo un mese di campagna politica da molti definita priva di temi veri, a nostro avviso anche correttamente, con poche risposte su cosa fare per un 2010 che sarà, ripeto, un 2010 vischioso, con una bassa crescita, una disoccupazione ancora problematica, con imprenditori e imprese più stanche, visto che hanno dovuto reggere già il colpo nel 2009, bisogna capire anche cosa si attende come risposta alla parte produttiva del paese. Abbiamo scelto come esempio il Nord-Est, non per altro, perché l'attesa verso il voto era quella più scontata, dai sondaggi che vediamo dovrebbe aver stravinto Luca Zaia. Al massimo si andrà a verificare se c'è di quanto la Lega si è rafforzata sul PDL, ma insomma il Nord-Est è l'11% della popolazione nazionale, il 20% del PIL, con una crescita negli ultimi 10 anni della popolazione che è stata di 250.000 abitanti, come se si fossero aggiunte due città, ma soprattutto è la regione simbolo della piccolissima impresa, dei distretti industriali, più ancora della Lombardia e del Piemonte. Nel 2009 il PIL nel Veneto è calato del 4,8% e la disoccupazione è calata tra il 3 e il 4%. I disoccupati hanno superato nel Veneto nei primi 9 mesi del 2009 quota 100.000. Meno 50% le assunzioni nella meccanica, meno 30% le assunzioni negli altri comparti manifatturieri, tranne l'alimentare, che è l'unico che è andato bene. Nelle costruzioni meno 25%, nelle attività finanziarie meno 44%, e poi l'ultimo dato: la produzione industriale manifatturiera è scesa del 13% in Veneto, le costruzioni meno 4,5%, il terziario ha ottenuto un po' di più, meno 1,4%. Le proiezioni, così anticipiamo il lavoro poi dei colleghi: Luca Zaia è dato al 62%, Giuseppe Bertolucci al 27,6%, quindi non c'è partita. Hanno votato il 66,4% degli elettori, 6 punti percentuali in meno. Allora lo facciamo, questo commento tra il politico e l'economico, con chi osserva tutti i giorni i temi veri di chi abita in Veneto. Io mi riferisco al direttore del Gazzettino di Venezia, Roberto Papetti. Buonasera. Buonasera a voi. Ciao Roberto. Allora, ciao. Rapidamente, perché poi lasciamo la linea al GR, di che cosa dovrà occuparsi Zaia a questo punto domani? E soprattutto, sui temi veri, ci sarà così tanta discontinuità, secondo te, rispetto alla gestione Galan, visto che tra i due sappiamo che non corre buon sangue, Galan non ha mai, diciamo, fatto una campagna elettorale per Zaia, mettiamola in maniera buona. Roberto. Allora, io credo questo, che la discontinuità ci sarà, nel senso che l'approccio che Zaia ha preannunciato e che è diventato, per così dire, il leitmotiv della sua campagna elettorale è stato: io non chiedo voti per costruire nuove strade, nuovi ospedali, questa è l'ordinaria amministrazione, io chiedo voti per avere maggiore autonomia finanziaria, e al primo posto la prima cosa che farò sarà di aprire un tavolo col governo per ottenere più soldi e più competenze. Questo basandosi sul fatto che il margine finanziario di manovra di una regione come la Regione Veneto, escluse le spese per la sanità che assorbono il 76% e una serie di altre spese fisse, lui lo conteggia in 1 miliardo. Dice, con 1 miliardo non si fa nulla una regione con queste potenzialità, con questa forza. Quindi noi dobbiamo ottenere più soldi. Ovviamente, se questo obiettivo verrà raggiunto, la discontinuità non ci sarà. È un obiettivo però molto, molto ambizioso, considerato anche il quadro macroeconomico generale. Ma è su questa la partita che si giocherà da subito. Tutto il resto passa inevitabilmente in secondo piano. Quindi tu mi stai dicendo che insomma, probabilmente ci saranno prove tecniche di federalismo, potrebbe diventare la regione... un tono abbastanza inusuale, Zaia ha detto che lui non vuole limitarsi a governare ma scrivere una pagina di storia, che è un'affermazione ambiziosa, ovviamente con l'occhio rivolto al federalismo e quindi all'ottenimento di un'autonomia che si basa su questo presupposto. Il Veneto ha dimostrato di essere bravo, se non addirittura il più bravo dal loro punto di vista, nel gestire alcune materie come per esempio la sanità, e si candida di conseguenza ad avere altre competenze e ritiene di poterlo fare, ed è su questo che si gioca sì. La partita, e naturalmente se il consenso è nella misura che tu hai indicato, su questo io ci andrei cauto, nel senso che sono delle proiezioni, sì, no, è vero, è vero. Stiamo parlando del 60-62%, è ovvio che è una specie, non dico di plebiscito, ma certo di consenso, ci va molto, un consenso molto, ci va molto forte vicino. Che però genera anche un'attesa molto forte. E cantiere quindi di federalismo, o perlomeno, se non il federalismo fiscale, perché lì serve una legge nazionale, forte pressione politica per far sì che più soldi, diciamo, per usare uno slogan leghista, più soldi dei veneti restino in Veneto. E quindi maggiore... E anche più competenze come autonomia territoriale. Su questo tu vedi, ed è l'ultima domanda che ho per te, che abbiamo ancora un minuto, vedi invece un possibile problema con il neo sindaco di Venezia, chiunque esso sarà, cioè voglio dire, si è detto spesso la Lega vorrà delocalizzare sul territorio, cioè tra Presidente della Regione e Sindaco di Venezia è sempre stato un rapporto dialettico, indipendentemente dalla collocazione politica dell'uno come dell'altro, credo che tale rimarrà, perché qua c'è sempre una contraddizione irrisolta tra il ruolo e il potere d'attrazione che ha Veneto, che Venezia vuole avere, e la regione. Si può ritenere che se Brunetta fosse sindaco di Venezia, alcuni ostacoli, alcuni percorsi, penso alla legge speciale, trattandosi di due persone che sono state sedute nello stesso governo, possono essere così semplici. Ma questa è una visione, secondo me, scontata, nel senso che sono dei meccanismi semplicisti. La politica in questi casi, esatto, è un po' più complessa. Credo, conoscendo per motivi di lavoro i due personaggi che tu hai citato, ci andrei cauto, perché sono, diciamo, due caratteri forti e anche abbastanza ben definiti. Comunque, importante quello che tu ci ricordavi, Roberto Papetti, cioè che qui la sfida si giocherà non tanto sulla gestione delle risorse ordinarie, quanto sul tentativo di mettere in cantiere un federalismo, una prova tecnica di federalismo non solo fiscale. Grazie, direttore del Gazzettino di Venezia, non ti chiedo il titolo di domani perché è ancora troppo presto, non voglio metterti in difficoltà. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio al nostro GR, poi al nostro speciale, poi continuerà Radio 24 a seguire tutto l'esito elettorale di queste elezioni regionali. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.